come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:33, 800-24-00-24 per chiamarci in diretta, sms 349-238-6666, la zanzara è radio24.it. Siamo ancora qui in diretta ad aspettare i vostri commenti sui fatti del giorno, i titoli del TG2. Tra forti polemiche con l'opposizione, via libera della Camera al decreto anticrisi che ora passa all'esame di Palazzo Madama, Berlusconi dice possibili modifiche del provvedimento al Senato. Il Premier sull'Afghanistan, la linea del governo non cambia, Bossi non cambia idea, ma rispetteremo la linea della maggioranza. Il ministro La Russa riferisce questa sera alla Camera. Sequestrato l'ospedale di Agrigento, aperto appena 5 anni fa, l'edificio realizzato con cemento scadente è a rischio sismico. Nei prossimi 30 giorni la struttura potrebbe essere sgomberata. Superano l'otto da record assoluto, stasera il jackpot è stratosferico, il 6 vale 107 milioni di euro, il montepremi più alto di sempre in Italia e nel mondo. Vi aggiungo a questa notizia un'altra proveniente da Palermo. Per mafia è stato condannato la notte scorsa a 10 anni e 8 mesi l'ex deputato regionale Mercadante, che è un ex parlamentare di Forza Italia, sotto processo con altre 8 persone accusate di mafia, estorsione e favoreggiamento. Non ci facciamo mai mancare nulla per quello che riguarda la politica. Studio aperto. Ancora 2 ore per sognare. In palio stasera 107 milioni di euro, il premio più alto della storia dei giochi. Sale la febbre dell'oro, record di puntate e code ai botteghini. L'antitrust indaga sulla Sisal, abuso di posizione dominante. L'azienda replica, tutto corretto. Il governo non cambia linea, non ce ne andremo dall'Afghanistan. Berlusconi ribadisce l'impegno italiano nella missione di pace. È irrinunciabile, conferma il ministro La Russa. In Abruzzo per la riapertura di una strada. Anche la Lega voterà sì. Maggioranza compatta sul decreto anticrisi approvato dalla Camera. Rischio sismico, la procura ordina il sequestro del nuovo ospedale di Agrigento. Si indaga sui materiali usati per la costruzione dell'edificio che potrebbe crollare in caso di terremoto. In pericolo altre strutture, domani chiude un ufficio postale vicino Monza. Cocaina e pasticche, aumenta in Italia il consumo soprattutto tra i giovani, lo rivela il rapporto mondiale presentato oggi a Roma, e cresce anche l'allarme per le droghe sintetiche e fai da te. Guerra all'alcol, da domani scatta il divieto per i venditori ambulanti. Eccoci qui, 800-24-00-24, iniziamo questa sera subito in pompa magna con una bella sviolinata di Emilio Fede da ieri sera a TG4. Da siciliano voglio fare una considerazione su quella che sarà un'opera storica, il ponte sullo stretto di Messina, che è importante, certamente, ripeto, opera storica, ma è anche importante, pensiamo a quante, bisogna pensare a quante migliaia di posti di lavoro nuovi ci saranno quando questa impresa sarà avviata al suo completamento. Intanto, dagli ultimi sondaggi, gli ultimi sondaggi confermano che la fiducia in Berlusconi non si è neanche di un punto indebolita, nonostante le polemiche che sappiamo e delle quali è più elegante non tenere conto. Secondo Euromedia Research, il 68,2% su un campione di 1.000 persone avente diritti al voto dice di avere fiducia nel capo del governo. Gli interpellati, non soltanto, ritengono che nessun altro leader sarebbe stato capace di resistere agli attacchi che gli sono arrivati politicamente e umanamente. Al tempo stesso ritengono che sia in grado, per capacità e competenza, a guidare il paese fuori dalla crisi economica, quindi a superare i tanti problemi che da un anno a questa parte, un anno di governo a questa parte, il Presidente del Consiglio è obbligato a confrontarsi, con il quale è obbligato a confrontarsi. E va bene, ogni tanto una sviolinata di Emilio Fede ci vuole per tenerci sempre vivi e allerta. 800-24-00-24, dove andiamo? Voglio aprire una discussione pubblica su Vittorio Sgarbi. Già l'altra sera una signora che ci chiamava da Modena si poneva un dilemma: perché lei manda sempre in onda oppure chiama direttamente in causa Vittorio Sgarbi? Beh, insomma, la risposta più semplice è perché Sgarbi fa spettacolo. E fa spettacolo anche con la sua volgarità, una volgarità ribadita continuamente anche in queste ore, non c'è dubbio. Non do alla volgarità necessariamente un'accezione negativa. Per esempio, in un'intervista che un gentile ascoltatore mi ha inviato, una intervista che Sgarbi ha realizzato con Rete Oro. Il linguaggio è quello che è, però è Sgarbi, non è che possiamo sottrarci. Sentite. Che cosa ne pensi di questa politica che ultimamente sembra più interessata al gossip che ai programmi? Penso che la gnocca tira comunque, quindi è un dato di fatto, però siamo ancora tranquilli perché siamo fermi alla gnocca, però siccome il culo ha un'area di estensione molto più ampia, siamo in pericolo, perché se dalla gnocca passiamo al culo, il culo è sia degli uomini che delle donne, quindi è molto più diffuso, è pericoloso, quindi fin qui andiamo abbastanza bene, insomma. Quando arriveremo al culo sarà, quando scopriremo che Berlusconi è ricchione, sarà una tragedia. No, perché sai, quando uno vuole sperimentare tutto, e giustamente sperimenta tutto, e può darsi, questo sarà forse il governo, non cade sulla gnocca, può darsi che cada, però non lo so, ecco. Poi sugli orari delle prestazioni sessuali di Berlusconi, sentitelo. È vero che l'uccello del premier non è un fatto privato, e però convenzionalmente gli si riconosce che dalle 2 del mattino alle 8 del mattino saranno cazzi suoi, cioè il tema è quello lì. Quindi andrebbe incriminata, come è stata quella di Salvo Sottile, la trombata con la Gregoracci fatta al Ministero di pomeriggio, quella è che... ma siccome il premier di pomeriggio non tromba, allora c'è una specie di embargo, per cui se tu lo fai a Palazzo Grazioli dalle 2 di notte alle 8 ti perdoniamo. Credo che sia così, però io non lo so, perché io vado anche più avanti, io limito il mio orario ancora più ristretto. Fin qui è lo Sgarbi molto crudo, come avete sentito, già gli ascoltatori mi scrivono: vergogna Sgarbi con questo linguaggio, l'uccello di Berlusconi e altre cose ancora. Sempre in questa intervista a Rete Oro si fa mano a mano più serio, se volete, e fa anche dei ragionamenti non del tutto campati in aria. Per esempio, il danno d'immagine di Berlusconi con questa vicenda della escort è perché, nonostante tutto, il consenso a Berlusconi rimanga alto. È un danno d'immagine, ma non credo che sia un danno che limita il suo favore politico. Cioè, se lui passa dal 65 al 58, rimane sempre, cioè, voglio dire, tra il premier che tromba e Franceschini, comunque l'italiano a naso preferisce il premier che tromba, perché nel trombare c'è anche che fa tante altre cose, capisci? Mentre Franceschini dice: come non tromba non fa un cazzo. Cioè è una sensazione, io credo, no? Perché altrimenti di fronte a quello che è capitato dice: basta questo Berlusconi, andiamo da Franceschini. Ma non viene, cioè, se tu avessi forse Bersani, dice, vabbè, tu allora basta Berlusconi, chi abbiamo di là? E vedi Franceschini, torni a casa, capisci? Cioè, credo che sia così. C'è una classe dirigente che, benché eticamente molto rigorosa come la sinistra, non è appetibile. Insomma, il discorso si fa serio. Parla poi della statura della leadership della sinistra, che soffre appunto di mancanza di leadership. E qui Sgarbi, che è partito dalla gnocca, come avete sentito, va su discorsi invece assolutamente, come dire, che secondo alcuni sono gli unici che una persona in radio, in televisione dovrebbe fare. La destra non ha trovato nessun altro oltre a Berlusconi. La sinistra le cambia ogni settimana, dice prima questo, poi questo, perché evidentemente non hanno, al di là della loro condotta e della loro capacità politica, Franceschini poi anche ce l'avrà, ma non hanno la statura di avere una leadership. E questo è un fatto, è la statura. So, Gassman era Gassman, non è che al posto di Gassman metto Lello Arena, non so, non è così. Fin qui Sgarbi, anzi, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Io so che ogni tanto ci ascolta quando torna a casa, quando si sposta con la macchina, il grande capo delle ferrovie Mauro Moretti. Allora, voglio fare un pubblico appello, non perché io prendo questo treno, c'è anche un interesse personale come in ogni cosa, per carità, però ci sono veramente tantissime persone che vanno, soprattutto pugliesi, che vanno da Milano a Lecce. Il treno è il 781, Milano-Lecce parte intorno alle 21:20, prima partita, poi sarà spostata alle 21. È un treno disastrato, disastratissimo, lo prendo da diversi anni ormai, spesso il venerdì sera, magari sono sfortunato, il venerdì sera è particolarmente affollato. In estate è ancora peggio. Le sue condizioni sono la maggior parte delle volte, non voglio generalizzare, penose: i servizi igienici scadenti, i sedili non ne parliamo, l'aria condizionata funziona una volta sì e l'altra no. Insomma, la situazione è questa. Partiamo dai bagni, l'ho preso l'ultima volta un paio di settimane fa. C'è acqua, in c'è meglio che non apri, guarda, c'è puzza. Meglio che non apri. E aspetta, non nessuno ci vede ancora. C'è su proprio, senti che puzza, senti. Abbiamo pagato 10 euro di più per il treno che parte di là alle 9:20, che non c'è l'aria condizionata, però tiri giù i finestrini e viaggi, e noi viaggiamo qua, carro bestiame. Tentativi di aggiustare l'aria condizionata. Com'è che non va l'aria condizionata? Non va, è guasta. Ma perché è guasta? Perché è guasta. No, ma non si può aggiustare? No, se la puoi aggiustare, sei venuto apposta io per vedere se è aggiustato. Non si riesce a aggiustare. Non si riesce? No. Se parte il treno, che quando va via il treno almeno un po' di aria entra dai finestrini che sono aperti. Ma noi mica abbiamo fatto lo sconto sul biglietto. Questa è per la protezione del treno. Loro hanno un libretto, gli potete fare la contestazione e vi rimborsano la parte del biglietto. Adesso non lo so come funziona. Io mi sposto, sì, vabbè, quando mi ricordo loro, mi sposto di qua e vado a mettere un altro vagone. Se c'hai i posti, mi deve spostare, è obbligato a spostarsi se c'hai i posti. Però se sono qui in strada carrozze, non so, non saprei. È il personale del treno che. Ma succede spesso, Succede, le carrozze sono tante in giro, se c'è il basso succede, può succedere. Ma è solo questa carrozza? Solo questa, sì. E perché non la cambiano? No, non è. E perché non la mettono in moto e andiamo via? Non andate via perché mandano i macchinisti, signor, non per la vettura perché? Che è guasta. Ma com'è possibile mancare i macchinisti? E perché non hanno fatto i biglietti? No, il biglietto lo fa perché la carrozza è funzionale. I macchinisti mancano perché devono arrivare con un treno, perché noi ci sfruttano fino all'osso, arrivano con un treno, e quel treno è in ritardo e quindi quei macchinisti devono fare questo altro treno di corno. Se non arriva quel treno, non possono fare questo treno. Avete sentito nell'ordine i bagni che puzzavano, e questo lo posso certificare, poi l'aria condizionata che non va e un ritardo di oltre un'ora perché i macchinisti vengono da un altro treno. In estate succede di tutto, molti sindaci impazziscono. Ricordo un sindaco che non è più sindaco, purtroppo, un sindaco della provincia di Caserta, Bacoli o di Napoli, adesso non ricordo, che voleva a un certo punto vietare le cannucce. L'anno scorso lo chiamammo e fu un momento cult, perché voleva vietare le cannucce, perché diceva che le cannucce, con le cannucce si poteva passare il bicchiere da una persona all'altra e dunque si propagavano, si diffondevano le malattie. Il sindaco di Pordenone, molto più seriamente in questo caso, vuole vietare gli assembramenti del massimo di due persone, cioè due persone insieme non possono stare, per fortuna, non in un'intera piazza, ma, dice lui, in un piccolo fazzoletto di territorio dove imperversano i pancabeste e altre persone che creano problemi a 100 residenti. Sentitelo. L'ordinanza spiega semplicemente che c'è l'impossibilità di assemblarsi, di stazionare da parte di alcune persone, di due o più persone, in una piccola parte della città che in questo momento è ostaggio da parte di una ventina di persone, tossicodipendente, pack bestia, eccetera. Abbiamo oltre 100 famiglie che fanno fatica ad entrare in casa. Ci sono concentrate una serie di persone che sono ai limite proprio della marginalità. Questo è il sindaco di Pordenone. Vogliamo sentire ancora un altro sindaco di Pordenone, un'altra delle motivazioni per questa ordinanza, e sentiamolo, va, se vi appassiona. Deiezioni umane, i cani dei pack bestia, ubriachezza, violenza nei confronti degli abitanti con una serie di problemi, e quindi proprio penso che questa ordinanza di fatto permetta agli abitanti comunque di avere un minimo di tranquillità, nel senso che questa ordinanza permette alle forze di polizia di denunciare queste persone, farle immediatamente evacuare da quella zona. Certo che non potevamo lasciare che oltre 100 famiglie non potessero più entrare in casa, di fatto. Ma secondo me, per evitare che queste persone diano problemi, e sicuramente li danno, basterebbe adottare altri provvedimenti. Che senso ha questo divieto di assembramento per due persone? Va bene, 800 24 00 24. Dopo Milano anche Bologna, un'ordinanza diversa del sindaco del Bono per la questione dell'alcol. Sentite. La battaglia contro alcol tra i giovani e degrado post-movida ora si sposta a Bologna. Da lunedì 3 agosto centinaia di attività commerciali, pizzerie, gelaterie e botteghe etniche dovranno chiudere i battenti entro le 22. Da quell'ora vendere bottiglie con bevande vietate costerà caro a chi sgarra. La stretta sul consumo di alcolici è stata decisa dal sindaco Flavio Del Bono in un'ordinanza appena firmata. Chi fa il furbo rischia multe dai 300 ai 500 euro. Per i commercianti recidivi è prevista la chiusura del locale. A differenza di Milano, qui a Bologna non ci si concentra sull'età dei consumatori, ma su zone e luoghi della città nelle quali i ragazzi sono soliti trovarsi e rifornirsi di alcol fino all'alba. Nel mirino del comune, quei negozi sempre aperti, in genere gestiti da stranieri, e che vendono di tutto, dai detergenti agli alimentari all'alcol, appunto. Solo chi lo farà sparire dagli scaffali potrà evitare la chiusura. Ma già si teme che il divieto possa essere aggirato dai venditori abusivi, come a Milano. Quanto vuoi? 2,50, quella 3 euro. Il provvedimento bolognese, in fase sperimentale, resterà in vigore fino al 30 novembre, mentre a Milano stanno per scattare le multe ai trasgressori. Il mercato abusivo e parallelo è in piena attività. Va bene, questa è la situazione a Bologna. Matteo dalla provincia di Verona. Intanto stiamo seguendo la finale campione del mondo di nuoto con Alessia Filippo, Filippi 1500 stile libero in grande rimonte. Fra poco ci collegheremo con Dario Ricci per seguire gli ultimi appassionanti metri. Alessia Filippi è seconda in rimonta, però sulla prima in questo momento. Matteo dalla provincia di Verona, poi a Roma andiamo, Matteo. Buonasera Cruciani. Dica. Niente, io volevo parlare di Sgarbi. A me è sempre piaciuto, quindi lo considero un personaggio televisivo un po' particolare, però intelligente, molto crudo, molto diretto. Quindi io spero che lei continui a utilizzare le sue interviste e magari a chiamarlo anche in diretta, perché personalmente lo ritengo una voce così simpatica e graffiante, a me piace. Anche quando utilizza quelle espressioni così forti, così crude. Sì, guardi, io sono un direttore commerciale, ho 37 anni e mi capita di motivare le persone, di avere molti meeting sia in Italia che all'estero, e effettivamente a volte usare qualche parola un po', diciamo, cruda, un po' così, che non si potrebbe utilizzare in altre occasioni, però motiva anche le persone, carica, e quindi a me piace. È un modo, una dialettica che forse ad alcuni può non piacere, però io la ritengo efficace, graffiante, mi piace. Bene, la ringrazio Matteo. Adesso restate tutti lì, fermi, perché andiamo con il nostro Dario Ricci a Roma, la piscina vicino allo Stadio Olimpico, la piscina del nuoto per questi campionati del mondo. Mancano, credo, Dario. Buonasera innanzitutto. Buonasera Giuseppe dalla piscina del Foro Italico. Mi sembra che ci sia un grandissimo entusiasmo. Mancano 300 metri, poco più, o sbaglio? Sì, 300 metri, poco più, alla fine del 1500 stile libero. Alessia Filippi è in testa. Straordinaria la prova della romana finora, che ha lasciato sfogare prima la danese Fritz. A 1150 metri Filippi in testa con un secondo e 26 sulla Fritz. La Fritz è scattata nella prima metà di gara con tempi ben al di sotto del record del mondo, ha avuto un vantaggio anche di circa 2,5 secondi su Alessia, che è partita con passo regolare, sempre intorno alla quinta, sesta posizione. A partire dai 700 metri è cominciata una rimonta che potrebbe diventare d'oro, perché Alessia ha ingranato la marcia, la quinta marcia, ha cominciato la rimonta, si è passata avanti per un centesimo ai 1000 metri e adesso allunga. Prima Filippi, la Frisa 1,91, continua questa splendida progressione Giuseppe, e Alessia continua ad aumentare il vantaggio, 1250 metri, quindi 250 metri alla fine, 1,91 il vantaggio di Alessia Filippi, sospinta come sicuramente sentirete da tutto il pubblico romano, da tutto il pubblico del Foro Italico. Alessia di Tor Bella Monaca è quindi la beniamina di casa. Vediamo il passaggio del 1250. Filippi in testa con 1,88 sulla Frisse, che ha ripreso 3 centesimi, ma Alessia sembra in controllo della situazione. Sembra in controllo, sì, mi sembra Dario che stia controllando. Il vantaggio rimane più o meno lo stesso. Certo, non molla la sua rivale principale. Vedo la linea con il record del mondo, ma non ci interessa il record del mondo questa sera. Ma siamo là, la mano di Alessia è di un buon 30 centimetri avanti al record del mondo, ma l'oro conta di più in questo momento. 200 metri alla fine, prima Filippi 13,38,44, più 1,93 sulla danese Frissa, allungata ancora Alessia. Alessia prosegue spedita ogni due bracciate respira prima a destra, poi a sinistra, quindi ha una completa visuale del campo di gara. Senti, ma ora... Dario, tu che segui bene tutte le gare di moltissimi sport, come sono i finali, gli ultimi metri di solito di Alessia Filippi? Te lo ricordi a Pechino? Sì, lei riesce proprio ad andare così in progressione, non a caso proprio a Pechino sugli 800 riuscì a portare a casa un argento preziosissimo alle spalle della Adlington. Adesso 2.10, eccola la prova di quello che stavamo dicendo, continua ad allungare, anche la starà pagando sicuramente la prima metà di gara fatta a ritmi ultraterreni, ma adesso ben più reale è l'avanzata di Alessia Filippi, che allunga anche su quella linea rossa immaginaria che vuol dire il record del mondo. Ma l'oro a Roma per Alessia vale di più, credetemi. 14, 36, 37, 38, mancano gli ultimi 100 metri, gli ultimi 50 metri, 14, 41, 79, 6 centesimi di vantaggio sul record del mondo e 1,93 sulla Fritz. Mancano meno di 100 metri all'arrivo. Alessia continua ad allungare, una nuotata ancora brillante, fluida quella della Filippi, ben meno efficace l'azione della Fritz, che ormai sembra rassegnata al ruolo di damigella d'onore sul podio di Roma. Alessia, una splendida cavalcata, tra poco inizierà l'ultima vasca, 1450 metri, tempo 15:13:48, 21 centesimi di ritardo sul record del mondo, ma 2:27 sulla Fritz. E allora sentitela questa piscina del Foro Italico, siamo tutti in piedi ad applaudire Alessia Filippi, l'ultima vasca, diventa una straordinaria passerella per la campionessa romana, 22 anni e il suo primo oro mondiale. Alessia, le ultime bracciate, manca pochissimo, porta a casa questo oro Alessia, portala a casa, 15:44:93, Alessia Filippi, campionessa del mondo sui 1500 metri, stile libero, seconda la danese Fritz, e mentre arriva la terza, la romena Potek, Alessia già sta mandando baci al pubblico di Roma, Alessia Filippi, medaglia d'oro nei 1500 metri. Stile libero, seconda medaglia d'oro da queste piscine dopo Federica Pellegrini, sì, straordinaria in una giornata che ha registrato anche la sconfitta clamorosa, ma in qualche modo prevedibile per quello che si era visto in acqua finora, di Michael Phelps su 200 metri stile libero. Bene, bene, grazie Dario, grazie, prendi fiato per il giornale radio delle 19, grazie a Dario Ricci per questa splendida telecronaca, quasi in apnea negli ultimi 3-4 minuti, ma straordinaria soprattutto perché la Filippi alla fine era abbastanza in difficoltà, da qui si vedeva, almeno dalla televisione si vedeva molto bene. Grazie a Dario Ricci dalla piscina dei campionati del mondo di nuoto. Torniamo con i nostri ascoltatori all'800 24 00 24, in un'edizione della Zanzara un po' speciale per questa finale bellissima del nuoto femminile. Cristina da Prato, buonasera. Buonasera Cruciani. Si è appassionata anche lei a questa finale di nuoto? Assolutamente, sono stata. Ricci l'ha fatta appassionare, la voce di Ricci, la telecronaca, la radiocronaca. Bene, dica. Allora, no, io la chiamavo, mi riferivo al discorso che ha fatto Dario Franceschini sul tradimento del Sud. È una cosa che mi ha abbastanza colpito perché, premetto, io ho 48 anni. Lo stanno dicendo in tanti, ne stanno parlando in tanti del cosiddetto tradimento del Sud, una cosa ridicola. Io non so se posso permettermi, ma questa cosa mi ha fatto un attimo sorridere, tra virgolette, e le spiego anche perché. 48 anni, sono libera professionista e abito, vivo e sono nata in Toscana e ringrazio Dio di essere nata in Toscana perché per tutta una serie di motivazioni, all'ultimo il posto, la possibilità di lavorare, le possibilità di sviluppare, eccetera, eccetera. Non so se sono arrivata a fare quello che faccio oggi se fossi nata in Calabria, in Puglia, piuttosto che in Campania, e questo lo premetto per tutta una serie di motivazioni. Però io mi dico, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale io vorrei capire quanti soldi tramite la Cassa per il Mezzogiorno, Sviluppo Italia, le varie agenzie che si sono occupate dello sviluppo, piuttosto che quanti soldi, Cristina, tantissimi, sono stati tantissimi soldi, l'ascoltiamo male, la sentiamo male per il telefono, abbiamo un ritorno molto metallico, comunque tantissimi soldi, anche oggi ho letto varie cifre sui giornali, non che tutti siano stati utilizzati male, però insomma abbiamo sotto gli occhi di tutti, per esempio, la storia delle opere mai terminate, mai finite. Ci sono tantissime opere, soprattutto al sud, che vengono iniziate e poi vengono, non si sa nemmeno se sono utili, poi queste opere vengono alla fine lasciate sospese nel nulla. TG3. La Camera dice sì al decreto anticrisi, Berlusconi correzioni al Senato, domani vertice sul Sud, il PD governo responsabile della recessione. Resta la tensione nella maggioranza sull'Afghanistan, la missione non cambia, dice il Premier, Bossi, noi leali, ma serve una riflessione. Sequestrato l'ospedale di Agrigento, inaugurato 5 anni fa dopo lavori durati 20 anni, sarebbe stato usato cemento depotenziato. Obbligatorio il certificato energetico per le case, serve ad attestare i consumi, sarà necessario per nuove costruzioni e compravendite. Gli Stati Uniti spengono il cartellone luminoso che lanciava slogan anti-Castro visibili a Cuba, un nuovo segnale di distensione voluto da Obama. Il drammatico racconto di donne immigrate, violenze e torture subite in territorio libico, la denuncia dell'associazione Be Free. Alessia Filippi vince una splendida finale dei 1500 stile libero ai mondiali di nuoto. L'atleta romana rimonta nel finale davanti al suo pubblico. Dalla rivoluzione alla speranza, una canzone per Obama nell'ultimo album di Tracy Chapman che chiude a Roma la tournée europea. Sviolinata a Obama invece del TG3, come è d'uso, come è normale ormai da mesi. E insomma avete sentito tra i titoli anche la vicenda dell'ospedale di Agrigento, a proposito delle classi dirigenti meridionali e della loro lungimiranza e del modo con cui hanno gestito il denaro pubblico negli ultimi anni, 20 anni per costruirle, e poi è successo quello che avete sentito. Sky TG24. Decreto anticrisi, via libera della Camera, accordo per le modifiche in Senato. Afghanistan, Berlusconi ribadisce, non si cambia, la russa riferisce a Montecitorio. Stragi di Capaci e Via D'Amelio, nuovi indagati nell'inchiesta di Caltanissetta. Trasporto aereo Tajani, nella UE smarrite oltre 4 milioni di valigie ogni anno. Abusi a Rignano Flaminio, la procura chiede il rinvio a giudizio per 5 indagati. Agrigento, sequestrato ospedale a rischio sismico, altre strutture nel mirino. Super Enalotto, stasera il jackpot da 107 milioni, antitrust, si sale sotto inchiesta. Accordo USA-Cina contro la crisi economica, insieme per una crescita bilanciata. Jackson fu il suo medico a somministrare il farmaco Lictale, perquisita alla sua casa a Las Vegas. Mondiali di nuoto a Roma, Alessia Filippi oro nei 1500 metri stile libero. Eccoci alle 19.20, 800 24 00 24. Allora, la maledizione del treno 781, il Intercity Notte Milano-Lecce. Lo prendo praticamente ogni venerdì ed è un disastro assoluto, bisogna intervenire, non perché lo prendo io, perché ci sono davvero migliaia di pendolari che da Milano vanno in Puglia e ritorno, perché anche il 780, quello che porta da Lecce a Milano, non è che sia rose e fiori. Abbiamo parlato prima dei bagni che puzzano, dell'aria condizionata che non va e del fatto che ci sono ritardi spesso abissali. Quando l'ho preso io, un ritardo di oltre un'ora perché i macchinisti vengono da un altro treno. Tentativo di aggiustare l'aria condizionata. Sentite quest'uomo delle ferrovie che, poveraccio, tenta di comunicare con i propri dirigenti. Pronto? Sempre dalla 781, il tecnico verifica, ha detto che non c'è niente da fare qua. Voglio dire, la gente... Altra soluzione? È una vettura? Pare che c'è gente anche che non sta bene. C'è anche gente malata? Va bene, dai, ciao. Quando è gente lì a vedere se c'è una vettura sostitutiva. Naturalmente la reazione dei viaggiatori è quella che sentite. Fa schifo, letteralmente schifo. Non ha servizi, non c'è aria condizionata, siamo già 40 minuti di ritardo. Stiamo aspettando i macchinisti che arrivano da, penso, Parma, Piacenza forse. Siamo un po' incazzati. Non è la prima volta questa, iniziamo male. Ma come si fa a viaggiare così con i bambini in queste condizioni? Non lo so, che devo fare? Non lo so. Io sono una persona che non mi ribello, capite? Non sono una libella. Aspetto gli eventi. E i bambini? I bambini stanno fuori, non lo so. Adesso mio figlio scolerà. Quanti anni ha? 14 mesi. Ma se parte magari si rinfresca un po', perché c'è, tenendo giù i finestrini, ma non c'è il macchinista. Quindi devo aspettare il macchinista. Solo che lei da quest'ora già dorme, non posso tenerla giù e... Mio marito mi ha detto di tornare a casa. Mi ha detto di prendere quello delle 10, ma quello delle 10 sarà prenotato tutto, dove ci mettono. Non è che poi sei una persona sola, dici magari un posto lo trovi, ma se siamo 100 persone che cambiamo treno, là è tutto prenotato, non puoi cambiare treno. Lei dove va? A Lecce. Quante ore? 12. 12 ore, per concludere, 12 ore vissute su treni la maggior parte delle volte sporchi. I sedili comunque sono impregnati di sporcizia, marroni, non lo so, sicuramente ci saranno anche degli animaletti piccoli, insetti e via di seguito, dovrebbero un po' vergognarsi del fatto, perché noi paghiamo il biglietto intero e dobbiamo viaggiare sicuri e puliti. Danno la sensazione che siano pieni di zecche e di pulci, perché quando me ne vado a casa devo subito mettere tutti gli indumenti nella lavatrice, perché mi sento un prurito, una sensazione di sporco. Fate qualcosa per il treno 781 Milano-Lecce, uno dei tanti treni a lunga percorrenza che soprattutto d'estate diventano un inferno. 800 24 00 24. A proposito di classi dirigenti meridionali, avete sentito prima un titolo del TG3 sull'ospedale di Agrigento e su quello che è successo all'ospedale di Agrigento, ma sono tantissime le opere al sud. C'è un primato assoluto che è quello della città di Giarre, opere mai finite per colpa non di Tremonti e della Lega, per colpa delle classi dirigenti del sud. Sono opere incompiute diventate inutili e opere nate inutili. A cosa poteva servire uno stadio del Polo da 6.000 posti a Giarre, comune di 26.000 abitanti all'ombra dell'Etna? Uno stadio costato 7 milioni di euro. Il comune praticamente andava quasi in dissesto solo per pagare gli oneri di esproprio di questa struttura, che praticamente è qui, la vedete, ha anche problemi di sicurezza. Il Polo a Cavallo era stato nel tempo un espediente di qualche assessore per ottenere questi finanziamenti. Sono delle opere che nascono sin dall'origine per coprire il bisogno di nessuno e quindi poi possono essere abbandonate perché nessuno le cerca. Giarre è il trionfo dell'incompiuto italiano. 12 opere ferme da decenni. Oggi non ci sono i soldi per finirle né per abbatterle. Avete sentito? Giarre, sempre in questo Ballarò, era un servizio preso da Ballarò di gennaio qualche mese fa, Gian Antonio Stella ci descrive la situazione di una diga in Calabria. Citava le dighe, dici tu una, potrei citare tante, ma una. La diga sul Metramo, che è ancora da finire concretamente, ha avuto 76 perizie di variante, il che vuol dire che per 76 volte i lavori si sono fermati. Hanno detto: i soldi che ci avete non bastano, vogliamo una perizia perché certi che ce ne vogliono di più. Perizia, accertà, nuovo finanziamento, ricominciano, si fermano, i loro soldi non bastano. 76 perizie di variante. È chiaro che una situazione come quella, come si fa a non essere, nel caso nostro, invidiosi di altri paesi? Le classi dirigenti del sud, le stesse che adesso vogliono fare il partito del sud, esattamente le stesse persone, non altre, non è che vengono da Marte gli altri, no, gli stessi. Va bene, 800 24 00 24. Allora, discussione su Sgarbi, che già è diventata piuttosto elettrica, con mail di gente che dice: io spengo quando sente Sgarbi, eccetera eccetera. E beh, Sgarbi in questa intervista a Rete Oro passa dalle parolacce, da un linguaggio molto duro, a ragionamenti invece più seri sulla leadership di centrosinistra, la gnocca e altro, sentite. Che cosa ne pensi di questa politica che ultimamente sembra più interessata al gossip che ai programmi? Penso che la gnocca tira comunque, quindi è un dato di fatto, però siamo ancora tranquilli perché siamo fermi alla gnocca, però siccome il culo ha un'area di estensione molto più ampia e siamo in pericolo, perché se dalla gnocca passiamo al culo, il culo è sia degli uomini che delle donne, quindi è molto più diffuso, è pericoloso, quindi fin qui andiamo abbastanza bene, insomma. Quando arriveremo al culo sarà, quando scopriremo che Berlusconi è ricchione, sarà una tragedia. No, perché sai, quando uno vuole sperimentare tutto, giustamente sperimenta tutto, e può darsi, questo sarà forse il governo, non cade sulla gnocca, può darsi che cada, però non lo so, ecco. Beh, insomma, il linguaggio è quello che è, l'avete sentito, vi risparmio altre cose. Poi passa un ragionamento più serio sul danno d'immagine che sta subendo, secondo lui, Berlusconi, e sul fatto che l'alternativa non c'è, dunque il consenso rimane piuttosto consistente. È un danno d'immagine, ma non credo che sia un danno che limita il suo favore politico. Cioè, se lui passa dal 65 al 58, rimane sempre, cioè, voglio dire, tra il premier che tromba e Franceschini, comunque l'italiano a naso preferisce il premier che tromba, perché nel trombare c'è anche che fa tante altre cose, capisci? Mentre Franceschini dice, come non tromba non fa un cazzo, cioè è una sensazione, io credo, no? Perché altrimenti di fronte a quello che è capitato dice, basta questo Berlusconi, andiamo da Franceschini, ma non viene, cioè se tu avessi, forse Bersani, cioè, vabbè, tu allora basta Berlusconi, chi abbiamo di là? E vedi Franceschini, torni a casa, capisci? Cioè è... Credo che sia così, c'è una classe dirigente che, benché eticamente molto rigorosa come la sinistra, non è appetibile. Non è appetibile, non è attraente, un po' questo è vero. E avete sentito Sgarbi che passa da un, inutile che ripeto, alla considerazione sulla leadership che manca nel centro-sinistra, 800-24-00-24. Poi ci sono i violini questa volta, i violini che suona Emilio Fede ieri sera, naturalmente a chi è inutile che ve lo dico. Da siciliano voglio fare una considerazione su quella che sarà un'opera storica, il ponte sullo stretto di Messina, che è importante, certamente, ripeto, opera storica, ma è anche importante, pensiamo a quante, bisogna pensare a quante migliaia di posti di lavoro nuovi ci saranno quando questa impresa sarà avviata al suo completamento. Intanto dagli ultimi sondaggi, gli ultimi sondaggi confermano che la fiducia in Berlusconi non si è neanche di un punto indebolita, nonostante le polemiche che sappiamo e delle quali è più elegante non tenere conto. Secondo Euromedia Research, il 68,2% su un campione di 1000 persone avente diritti al voto dice di avere fiducia nel capo del governo. Gli interpellati, non soltanto, ritengono che nessun altro leader sarebbe stato capace di resistere agli attacchi che gli sono arrivati politicamente e umanamente. Al tempo stesso ritengono che sia in grado, per capacità e competenza, a guidare il paese fuori dalla crisi economica, quindi a superare i tanti problemi che da un anno a questa parte, un anno di governo a questa parte, il Presidente del Consiglio è obbligato a confrontarsi, con il quale è obbligato a confrontarsi. Andiamo subito agli ascoltatori e partiamo da Milano. Renato, buonasera. Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Dunque, io volevo parlare del problema del treno. Il treno che appunto lei ha menzionato e sì, che fa parte però fondamentalmente di una categoria che anche lei, come lei ha detto, diciamo sono quei treni dalle 20 in poi, quindi notturni, e fondamentalmente sono o degli intercity o degli espressi. Il problema è che appunto c'è proprio una concentrazione di microdrammi o macrodrammi, diciamo, ritardi e quant'altro, come lei l'ha detto e l'ha anche testimoniato. Il problema qual è? Che mentre sulle piccole tratte i pendolari hanno per così dire anche modo di radunarsi, diciamo organizzarsi in comitati e quant'altro, e quindi andare a discutere, quantomeno far sentire la propria voce, alla fine di viaggi così proprio di odissee a volte, niente, ognuno poi va per la sua strada, non c'è modo di sentire, di mettere insieme queste voci, che sono, verrebbe fuori un urlo proprio. Di conseguenza tutto poi si smonta, se non sbaglio c'è addirittura un problema, cioè bisogna intervenire, diciamo, se uno vuole rivalersi su queste cose qua, lo si può fare solo a livello personale, quindi il dramma che è collettivo di un intero treno si frammenta e non c'è mai modo di dare veramente l'idea di ciò che è successo. Persone che devono spostarsi per andare a fare magari delle chemio, quindi non solo, cioè non è certamente viaggio di piacere uno che prende un treno e si fa tutta quella scarrozzata, io lo faccio per No, certo, lei ha ragione Renato, dunque credo che che sia necessario ogni tanto far ascoltare, no, le voci messe insieme, magari è troppo poco, delle persone che si sottopongono a viaggi molto lunghi e che, non sempre naturalmente, ma spesso su alcune tratte devono subire ritardi, mancanza di servizi essenziali, eccetera, eccetera, no? Sì, dicono che scrivono qualche cosa sui rapporti, però capisce che è brodo loro, cioè tutto rimane, non c'è un qualche cosa che poi arriva alla magistratura per dire e va a mettere lo zampino. Vabbè, adesso non è che la magistratura, ogni volta bisogna invocare la magistratura, non è che si commettano reati. Ha ragione, il problema qui, io quello che dicevo è che l'unica cosa che potrebbe succedere, che possa essere da collante per tutte queste, diciamo, vicissitudini, sono le associazioni dei consumatori, chi altro? Cioè io quando ho 3 ore, 4 ore di ritardo e mi è capitato, non vedo l'ora di tornare a casa, non di fermarmi per il discorso del rimborso, cioè capisce, cioè è questo il discorso. Quindi, va bene Renato, la ringrazio. Graziano, provincia di Ancona, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Senta, anche io sono d'accordo con quel signore, però io le posso dire una cosa, che io il 781 da 20 anni che conosco il problema, perché ho fatto il macchinista in Ancona per 37 anni. No? Adesso è in pensione lei? Sì, sono in pensione, ma io posso raccontare le storie allucinanti del 781, no? Allora, questo è un problema che si risolve tutti insieme, perché i praticanti del 781, i viaggiatori del 781, all'80% sono sempre gli stessi, specialmente al venerdì. Allora, se non si fa una manifestazione forte, fortissima, adesso io non vorrei dire cose ancora più gravi, no? Perché lei, quando parlo di manifestazione forte, lei già intende cosa fare, tutti insieme, ma per 2, 3, 4, 5 ore, allora forse qualcuno in alto, vista una manifestazione di quel tipo, se ne prende atto. No, secondo me non ci vogliono le manifestazioni, Graziano. Naturalmente non è sempre così, è certamente un treno disgraziato, i servizi non sono fenomenali, eppure, ripeto, per un tragitto così lungo ci vorrebbero servizi più degni. D'estate tutto peggiora. La ringrazio. 800 24 00 24. David ci chiama da Pisa, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, pensando alla frase che ha detto Franceschini, a volte mi stupisco, perché se ne vengono fuori con delle considerazioni come se piovessero dal cielo loro, non ci fossero mai stati al governo. E all'opposizione, governo e opposizione. E all'opposizione, sì. Esatto. Si parla solo. Cioè l'opposizione grida lo sfascio del sud, come peraltro parti, sì, della maggioranza, come se non avesse mai avuto responsabilità di governo. Insomma, cosa, sì, da pazzi. Sembra un po' strano. Salvo che poi, quando a volte si sente dire il ponte sullo stretto, è una cattedrale nel deserto. La Salerno-Reggio Calabria interessa solo quando nevica e si blocca. Ora, se ci fanno 20-30 km di coda, non dà noia a nessuno. Allora mi sembra strano. È una cosa che un pochino, dico, almeno avessero il pudore di dirlo diversamente. Dicono solamente lo sviluppo. Con la frase lo sviluppo fanno le peggio cose che esistono. Poi, sì, Davide, naturalmente in questo caso la responsabilità maggiore, direi quasi paradossale, è di alcuni esponenti della maggioranza, i quali hanno avuto tantissime responsabilità, soprattutto regionali, e che adesso gridano lo scandalo per il Sud. Sì, è verità. La ringrazio. Senta questa che viene dalla Giunta regionale pugliese, che ha stabilito che indipendentemente dall'età sono esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, cioè non pagano il ticket fondamentalmente, tutti i cittadini stranieri extracomunitari. Rifugiati politici o con protezione umanitaria presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e privi di risorse economiche, cioè sostanzialmente i clandestini, che potranno dunque avere l'assistenza sanitaria lo stesso. Immigrati irregolari esenti dal ticket sanitario. Va bene, andiamo a Palermo. Vincenzo, buonasera, non c'è Salvo da Palermo allora. Salvo, buonasera, dica. Si deve preparare. Carlo da Parma. Pronto? Sì, buonasera Carlo. Buonasera, io l'ho chiamata perché mentre lei si lamentava del treno Milano-Lecce, se non sbaglio. Sì. Ecco, ero in autostrada e vedevo passare più volte il Frecciarossa. E quindi mi è venuto in mente un po' l'Italia che viaggia a due velocità, no? Quella del Milano-Lecce che probabilmente fa fatica a tenere puliti i bagni. E quello del Frecciarossa che invece veramente questi problemi non ce li ha assolutamente. Questo per dire che molto spesso in Italia si pensa, ricollegandosi poi al discorso dello stretto sul ponte sullo stretto di Messina, alle opere per la loro importanza, per la loro immagine, più che poi per l'utilità effettiva che danno. Io sono sempre stato uno dei contrari al Frecciarossa, perché... Come si fa a essere contrari al Frecciarossa? Mi scusi. Ma contrari perché... Cioè, allo stretto di al ponte sullo stretto di Messina, lei lo sa come la penso, probabilmente io sono favorevolissimo, ma insomma c'è un dibattito, certamente non penso che sia pazzo sostenere la tesi che non bisogna costruirlo, per carità. Però come si fa a essere contrari ai treni a alta velocità? Francamente non riesco ad afferrarlo. Ma semplicemente perché non è stato affrontato il primo problema dei treni, che è quello che poi lei ha riportato, cioè quello dell'uso quotidiano, dove chi è costretto a usarlo per lavoro tutti i giorni poi trova mille disagi, e quindi probabilmente bisognerebbe prima di tutto aumentare l'efficienza della rete, quella che già esiste. Uno dei problemi più grossi, io lo vivo a Parma, è il vecchio problema dei treni per i pendolari. Oggi ci sono degli accordi regionali tra Trenitalia e le regioni, diciamo che devono fare entrambi il loro mestiere in maniera più incisiva. Ci sono sicuramente investimenti da fare per quello che riguarda le ferrovie dello Stato, che già in parte sono stati avviati per quello che riguarda i treni dei pendolari, e anche le regioni devono fare la loro parte. Però sono due partite diverse. Certamente il grande investimento negli ultimi anni è stato sull'alta velocità, però non riesco a capire come si possa essere contrari all'alta velocità solamente perché la situazione dei pendolari in alcuni casi è drammatica. Ecco, premetto, non contrario come opera realizzata, ma quanto come priorità di investimento. Sicuramente avrei privilegiato la prima, cioè quella di sistemare, di rendere efficiente una rete ferroviaria che già esiste, e quindi dirottare una parte degli investimenti previsti su quello che già abbiamo, che purtroppo non è efficiente. Sì, bisogna anche dire che le ferrovie devono fare profitti e le linee ad alta velocità sono più profittevoli, diciamo, delle altre. Si può pensare che questa, non siamo più ai carrozzoni di Stato che vengono finanziati a piedi lista, insomma bisogna fare profitti, e questo è importante. Non si può pensare di vivere in un altro mondo, nel mondo in cui poi interviene Pantalone e mette dei quattrini. La ringrazio. Raul ci chiama da Bergamo. Buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Appunto, volevo parlare anch'io riguardo al problema delle ferrovie e al discorso che era un po' il tema anche della serata della leadership della sinistra. No, volevo agganciare questi due concetti. Il problema della sinistra, secondo me, è che non intercetta più i bisogni della gente, quindi della gente che lavora, no? E quindi mi riaggancio anche alla telefonata dell'ascoltatore precedente. Cioè, io sono un pendolare giornaliero e non sto qui a raccontarle tutte le traversie a cui siamo sottoposti. Bergamo-Milano. Bergamo-Milano non è proprio una tratta da pendolare, ci sono diversi treni che si possono prendere, non solamente regionali, ci sono anche degli intercity, insomma ci sono diverse possibilità, no? Sì, ci sono diverse possibilità, il risultato pratico però è, non sono io a dirlo, anche il Corriere della Sera ultimamente ha fatto delle indagini veramente buone, insomma oggettive, ecco, sì. Non parte in causa, e quindi... Quali sono i disagi maggiori? Prego, non ho capito. Quali sono i disagi maggiori, Raul? I disagi maggiori sono derivanti dalla pulizia delle carrozze e dai ritardi e dalla inaffidabilità sugli orari quando non si parla di soppressione di treni. Ecco, questo è un po' io che faccio un lavoro, ho degli appuntamenti, insomma devo incontrare fornitori, clienti, eccetera. Quando devo fare questo devo assolutamente affidarmi all'automobile partendo con molto anticipo. Questo è un po' il discorso. Io sono un elettore di sinistra, quindi ci tengo, la sento molto questa cosa qui, perché vivo in una terra dove invece c'è un movimento, che è il movimento della Lega, che è molto capace di intercettare quelli che sono appunto i bisogni delle persone che lavorano. Le soluzioni che propone, adesso vedremo le realizzazioni pratiche, perché adesso hanno maggioranza e quindi riusciranno a metterle in pratica, vedremo che soluzioni proporranno. Ripeto, il problema della sinistra è che non c'è un leader capace di dire chiaramente, fare un progetto dicendo attenzione, la nostra priorità è risolvere questo che è diventato un problema veramente enorme. E come diceva anche lei giustamente adesso, osservando sull'intervento dell'ascoltatore precedente, va fatto profitto, Io le dico, facendo dei sondaggi così tra i miei colleghi pendolari, che tutti saremmo disposti a pagare anche un 10% in più per avere un servizio migliore. Questo dei prezzi dei treni è un elemento sicuramente interessante. La ringrazio, Raul. 800 24 00 24. Ancora Sgarbi che ricorda, a proposito della leadership della sinistra, la vicenda Occhetto. Addirittura, sentite, simpatico. Io sono stato con Berlusconi nel 94 perché qualunque italiano che non fosse tesserato non poteva aver dubbi che fosse meglio Berlusconi di Occhetto. Cioè, non so se avete visto, cioè, Occhetto, voi ve lo ricordate, a parte quello che scriveva, un ragazzo simpatico, ma un ragazzo di campagna, con i capelli che non stavano mai da nessuna parte, non aveva un cazzo, cioè, voglio dire, come fa un italiano che non sia iscritto al PC a votare Occhetto? Ecco perché ha perso. Dopodiché arriva Prodi, che è più strutturato, infatti Prodi ha vinto, no, Prodi aveva era meno sexy, però. Poi è arrivato Rutelli, c'è cioè una persona normale tra Rutelli e Berlusconi, vota Rutelli, no, perché per le ovvie ragioni. Allora, il problema non è quello che fa il Premier, è quello che è. Allora, questa mancanza di esistenza di alcuni rappresentanti dell'opposizione porta al fatto che uno si tiene Berlusconi, capito? Ma lo dico nel modo più tranquillo, nel senso che tu dici, vabbè, basta Berlusconi o Franceschini. È talmente poco sicuro Franceschini che stanno già cambiandolo. Poi a Sgarbi sembra piacere invece la candidatura di Bersani, sentite, per motivi un po' bizzarri, devo dire. Quando in Parlamento, molti anni fa, io amico di Bersani, l'ho presentato a Berlusconi, l'ho presentato io, lui stava cercando il coordinatore di Forza Italia, che poi divenne il povero Bondi, prima di Bondi. Allora dico, guarda, perché non nomi di Bersani? Ne avessimo di Bersani, mi ha detto Berlusconi, ne avessimo. Tra l'altro comincia per Berlusconi, Bersani. E quindi poi è un pelato, poi in cosa è meglio di Berlusconi? Berlusconi è un pelato incazzato e l'altro è un pelato tranquillo, cioè è contento, sono quelli che non hanno i capelli e stanno bene, quelli che hanno i capelli si mettono il parrucchino. Allora in questo Bersani ha un elemento in più rispetto a Berlusconi e questo secondo me potrebbe portare. Salvo da Palermo, buonasera. Buonasera. Prego. Sì, io volevo intervenire per quanto riguarda l'ospedale di Agrigento, io chiamo da Palermo, dico, mi chiedo com'è possibile, chissà quanto persone come me si chiedono com'è possibile una struttura pubblica, un ospedale che viene data l'abitabilità, ammesso che ce l'abbia l'abitabilità, e non vengono fatti dei controlli così accurati. Sono stati fatti questi controlli? Ci sono dei responsabili? Come viene abitato un ospedale così importante, dico, si lascia così, decidere a chiunque di dire sì, potete abitare, potete occuparlo, una struttura pubblica del genere. Guardi, Salvo, io non posso che far ascoltare un servizio mandato in onda poco fa dal TG3, che l'ha messo giustamente nei titoli sulla questione Agrigento. Sono stupito quanto lei, sono stupito non troppo in realtà per il modo di gestire la cosa pubblica che c'è al sud. Sentiamo questo servizio, c'è o non c'è? Studio aperto, anzi, sentite. È costato oltre 100 miliardi delle vecchie lire, ma è stato costruito con materiali scadenti e cemento depotenziato e adesso è a rischio sismico. Il complesso ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento, insomma, non è sicuro e dovrà essere sgomberato entro un mese. Il provvedimento è della procura che questa mattina ha messo sotto sequestro l'intera struttura. L'inchiesta avviata a marzo dalla Guardia di Finanza ha coinvolto 22 persone tra tecnici, funzionari, manager dell'azienda ospedaliera, progettisti e imprenditori. Un vero e proprio comitato d'affari che per i magistrati avrebbe intascato tangenti per milioni di euro. Le perizie infatti adesso hanno accertato che l'intero complesso inaugurato appena 5 anni fa è stato realizzato interamente con del calcestruzzo con un'alta percentuale di sabbia, quindi con un altissimo rischio di crollo. Adesso il direttore sanitario, che intanto è stato nominato custode dell'edificio sotto sequestro, entro 30 giorni dovrà provvedere al trasferimento degli oltre 400 malati, dei medici e del personale amministrativo. Vabbè, Salvo, ha sentito la solita roba, no? Dove vanno a finire queste persone? Non lo so, vedremo naturalmente. Va bene. Per queste cose non c'è mai una giustizia rapida, soprattutto, al di là poi delle pene, no? Ah, senz'altro. Adesso c'è il balletto delle competenze. Sì, chi doveva controllare? Chi doveva dare il benestare per abitare? Lei ha ragione, Salvo. Cosa vuole che le dica? Però il discorso rimanda poi alla responsabilità delle classi dirigenti del Meridione. Su questo non c'è dubbio. non ai soldi che non arrivano, insomma, o non al sud negletto e abbandonato. Esatto. Va bene, grazie. Leandro da Roma, buonasera. Pronto, buonasera. Allora, io volevo intervenire sui treni. Volevo dire che volevo parlare di una mia esperienza personale. Ho viaggiato per 2 anni sulla tratta Roma-Milano e ho viaggiato con tutti i tipi di treni, dall'Espresso, l'Intercity, Eurostar e anche Frecciarossa in quest'ultimo periodo. E ho trovato sinceramente l'Espresso in un modo terribile. Sembriamo veramente... Lei ha trovato, mi scusi, non ho capito che cosa... Non ho capito che cosa ha trovato. Il treno Espresso l'ho trovato veramente sporchissimo. Come cioè lei prende un Espresso tra Roma e Milano? Sì, perché purtroppo quando per motivi personali ho dovuto viaggiare praticamente tutte le settimane, quindi per motivi economici, non potendomelo permettere, ho dovuto prendere questo treno Espresso tutte le settimane. Quante ore ci mette? Mi scusi, Leandro, io prendo solo l'Eurostar, ma sarò fortunato, certamente, però. No, certamente. Beh, fortunato fino a un certo punto, perché le spiego. L'Espresso ci mette 8 ore, però viaggiando di notte arriva sempre puntualissimo a Milano e viceversa anche a Roma. Mentre quando si pagano 56 euro dell'anno scorso per l'Eurostar e 71 di Frecciarossa per quest'anno, si viaggia in 4 ore, però non è mai certo l'orario d'arrivo. Ma guardi, io le volte che l'ho preso sarò stato fortunato anche qui, sì, qualche volta dei ritardi, però insomma molto molto abbastanza accettabili, insomma. Perché cos'è che non va nell'Espresso? Non ho capito. Non è che cosa non va nell'Espresso, vabbè, a parte la pulizia. Volevo dire semplicemente che Trenitalia non si assume assolutamente la responsabilità dei ritardi, perché liquida tutto con una lettera inviata dopo 2 mesi dicendo che la responsabilità non è sua. Però Dipende, ogni tanto rimborsano, ogni tanto no, c'è una lunga discussione su questo. La responsabilità dei ritardi se la assumono perché pagano i rimborsi. Cosa vorrebbe dopo i rimborsi? Qualcos'altro? Vorrei un po' più di trasparenza da parte di Trenitalia, un'assunzione più immediata delle proprie responsabilità, anche perché, voglio dire, se il treno viaggia su un binario non dovrebbe trovare ostacoli, quindi la responsabilità è esclusivamente di Trenitalia. Sì, d'accordo, ma la responsabilità va a finire nel rimborso. Dopodiché, dopo il rimborso, cosa ci può essere? Mi spieghi? Un risarcimento da anni? Che cosa? Ogni tanto i pendolari avanzano quest'idea, ho letto sui giornali, che cosa? Non parlo di risarcimento danni, anche perché danni economici a me non ne ha fatti. E allora? Posso capire? No, io dico semplicemente che il rimborso ci deve essere, punto e basta. Quello di solito c'è, tranne in alcuni casi in cui ci sono dei motivi che non prevedono il rimborso. Si può discutere sui tempi, eccetera, sulle modalità del rimborso. Va bene, allora adesso abbiamo un personaggio che voi sicuramente ricorderete e che è diventato un protagonista della cronaca politica e non solo, 2 anni fa, esattamente 2 anni fa. Da quel momento in poi vive in una sorta di incubo, certamente, ed è stato anche oggetto di parodie comiche. Questo la dice lunga sul fatto che spesso le persone che hanno degli inciampi nella vita, poi in alcuni casi è difficile che escano fuori da questa situazione. Benigni, per esempio, ne ha parlato anche lui, sentite. Cosimo Meli, se vi ricordate, lì a Via Veneto, quello lì dell'UDC, che d'estate di luglio venne preso cocaina, squillo, e io lo so, e sono dalla sua parte, povero Cosimo Meli, quello poveraccio, erano 15 giorni che era chiuso. Con i capi dell'UDC, Cesa, Buttiglione e Giovanardi, da 15 giorni a parlare della morale e della famiglia. Bisogna voler bene alla moglie e stare solo con lei. I bambini, la domenica, sì, per 15 giorni appena uscito ha comprato 3 siringhe, 10 etti di cocaina, 15 canne, 10 mignotte nostrane, 4 squillo, e si è lasciato andare. Ma assicuro io, il povero Cosimo Meli. Mele, buonasera, buonasera. Buonasera. Io rido naturalmente perché questa cosa qui ha fatto ridere tanti italiani. Lei come l'ha presa all'epoca quando l'ha sentita? Ma le parodie sicuramente bene, perché fa parte, diciamo, di un qualcosa che comunque fa piacere. Addirittura fa piacere anche una parodia di questo tipo. La parodia sicuramente sì. Meno piacere altre cose, però sai, è che un comico faccia dello spirito su una vicenda che comunque è una vicenda accaduta, una vicenda che comunque ci stanno le parodie. Che può nascondere nulla? No, non no, è il mio uso, non è il mio costume. Insomma, nascondere nulla. E ci fu anche una performance di Crozza, non so se la ricorda, sentiamo anche questa. E intanto oggi è rispuntato sul giornale, non so se l'avete visto, Cosimo Mele, quel politico che a parte il rock and roll tutti gli altri vizi ce li aveva, ve lo ricordate? Una delle due partner di quella famosa notte ha detto al giudice che fu l'ex parlamentare a portare la coca. Tra l'altro Cosimo Mele è candidato per le europee. Chissà se sei già informato su quanto dista Bruxelles da Amsterdam. No, perché adesso Cosimo Mele si è candidato con l'ADC. Ha lasciato l'UDC per la ADC. Finché non arriva all'LSD siamo tranquilli. Questo forse è un po' più pesante, Mele, No, è pesante, è sempre una parodia. Siccome tutta la vicenda è una parodia, la prendo come una parodia. Senta, due anni fa esattamente, la notte tra il 27 e il 28 luglio del 2007, ha recuperato da quella notte dal punto di vista anche psicologico? Lascio perdere tutta la parte giudiziaria, insomma, del suo rapporto con la sua moglie, lei ha due figli, eccetera, oppure no? Guarda, purtroppo, meno male che non sono serviti due anni. È servito sicuramente un buon senso con la mia famiglia, soprattutto con mia moglie, che è una donna straordinaria e alla quale veramente devo dire che la devo ringraziare per come si è comportata, perché nei miei confronti continua ad essere la donna di sempre. Senta Mele, mi ricordo che qualche giorno dopo l'allora suo segretario Cesa se ne uscì con una frase che da tutti fu ritenuta una frase assolutamente sconveniente. Gliela faccio risentire, lei se la ricorda sicuramente. Qui bisognerebbe dare molto di più ai parlamentari, perché bisognerebbe ricongiungere le famiglie parlamentari, cosa molto seria, perché stare qua una settimana da soli non è una cosa. Io l'ho vissuto stando in Europa ancora di più, perché poi insomma la solitudine. A prescindere dal clima che c'era all'epoca, per lei non fu una frase particolarmente felice, non l'aiutò per niente, anzi. No, perché chissà perché, voglio dire, su quella frase è stato costruito un po' il pandemonio, perché non è che abbia detto nulla di straordinario, ha detto, secondo me, il problema esiste, che poi il parlamentare comunque di suo si può portare la famiglia a Roma, questo lo può fare tranquillamente, però la solitudine a Roma, per secondo quella che è stata la mia esperienza, è un problema che non si pone, cioè no, beh, certo, figuriamoci se io spero che lei non, di fronte a quello che ha fatto, non l'abbia affrontato anche con sua moglie dal punto di vista della solitudine, insomma, non è quello il punto. No, io con mia moglie questo problema l'ho affrontato, come non l'ho affrontato, tanto è vero che a settembre avevamo deciso di andare a vivere insieme a Roma. Senta, lasciamo perdere la solitudine, le battute di Cesa. Oggi leggo che lei attribuisce quelle vicende, cioè quei festini, la cocaina che lei dice di non avere mai preso e la frequentazione con quelle due prostitute ad una sorta di complotto ai suoi danni, ordito all'epoca da un parlamentare dell'UDC o comunque da un dirigente locale, se non ricordo che ruolo avesse, dell'UDC. Cos'è la storia di questo complotto? Ma io non so se c'è sotto un complotto o meno, io so solamente che è venuto fuori, è stato bravo Paolo Berizzi a farlo venire fuori, perché sa, nelle interviste ci sono cose che si dicono, cose che non si dicono. Io per due anni non ho detto, non ne ho parlato di questa storia, perché pensavo di parlarne davanti a un magistrato. Non sono stato interrogato, non ho depositato da quella storia a oggi. E ieri è venuta fuori questa storia perché penso che Berizzi fosse già a conoscenza di questa cosa. Berizzi, che è un giornalista di Repubblica. Insomma, lei che cosa pensa? Che cosa pensa di questa vicenda? Cioè, fu Tato Greco, ex parlamentare dell'UDC, che organizzò tutto ai suoi danni o che chiamò qualcuno, insomma, la polizia, eccetera. Non ho capito, scusi. fu Tato Greco, ex parlamentare dell'UDC, a organizzare tutto ai suoi danni. Lei pensa questo? Allora, senta, io non punto mai il dito nei confronti di qualcuno. Diciamo che Tato Greco con questa signorinella erano settimane che me la proponeva. Allora, di fronte a una situazione del genere, oggi leggo anche un'ansia veramente disperata da parte dell'onorevole Greco, mi sembra veramente assurdo che questo venga negato, anche perché negli atti processuali di personaggi di sua conoscenza alla quale amici della Zenobi, insomma, ci sono fatti, circostanze e quant'altro. Sinceramente il fatto che Greco lo nega è veramente assurdo. Insomma, un trappolone ai suoi danni, lei dice? Ma no, non credo. Credo che sia stata più che un trappolone, sia stata una leggerezza. Una leggerezza, non so quanto trappola e quanto no, insomma. Ma insomma, siccome lei a Gian Antonio Stella qualche tempo fa pronunciò proprio la parola trappolone ai suoi danni, allora se la rimangia quella frase? No, non me la rimangia. Secondo me anche il Greco non pensava di avere a che fare con una ragazza che non aveva nulla da perdere, secondo me. TG1. Alessia Filippi, romana, conquista l'oro nei 1500 stile libero, nuovo record del mondo per Federica Pellegrini, stavolta nei 200. Decreto anticrisi, sì della Camera, Berlusconi modifica al Senato, Afghanistan, la linea non cambia, dice la russa in aula. Agrigento, sequestrato l'ospedale costruito con cemento scadente, rischio crollo, entro un mese fuori medici e ammalati. Accordo industriale da 20 miliardi tra Finmeccanica e Libia, Guarguaglini, allarghiamo i nostri interessi verso l'Africa. Auto si ribalta in curva, la investe un'altra vettura, muoiono tre giovani vicino a Varese, salvi due amici usciti per soccorrerli. Super Enalotto, in diretta la Sestina vincente, jackpot da 107 milioni, nell'ultima settimana puntate per 130 milioni. Andiamo a sentire anche i titoli del TG5. Oro per Alessia Filippi nei 1500 stile libero ai mondiali di Roma. L'azzurra trionfa dopo un entusiasmante rimonta. Il nuovo record mondiale per Federica Pellegrini nelle semifinali dei 200 stile libero. È sempre più alta la febbre del Super Enalotto. Tra poco l'estrazione. Chi indovina il 6 vince 107 milioni di euro. Decreto anticrisi al Senato dopo l'ok della Camera. Prevista l'approvazione entro la settimana. Intesa nella maggioranza su alcune specifiche modifiche critiche dal PD. Sigilli all'ospedale di Agrigento, inaugurato solo 5 anni fa, rischia di crollare, nei pilastri più sabbia che cemento, un mese per lo sgombero. Bertolaso, entro settembre la gente fuori dalle tende, la sfortuna di un terremotato, dopo la casa distrutta gli rubano il camper in cui vive con la famiglia. Ogni giorno negli aeroporti del mondo si perdono 90.000 valigie, una ogni 64 passeggeri soltanto in Europa. Il commissario Tajani, inammissibile, servono misure urgenti. Elisabetta Canalis e George Clooney fotografati abbracciati a Roma, tra i due un vero colpo di fulmine. E va bene, con il colpo di fulmine tra Elisabetta Canalis e George Clooney torniamo al nostro ospite, che è Cosimo Mele, che ricordate, ex deputato dell'UDC, attualmente militante dell'Alleanza di Centro, con cui si è candidato senza troppa fortuna per pochissimi voti alla provincia di Brindisi. E fu protagonista di un episodio di cronaca per aver trascorso la notte tra venerdì 27 luglio e sabato 28 luglio del 2007, dunque esattamente 2 anni fa, in una suite dell'hotel Flora di Via Veneta a Roma con 2 prostitute. Una di esse poi fu ricoverata in ospedale per un malore, probabilmente da attribuire all'uso di cocaina e alcol. Gli inquirenti in realtà non hanno mai accertato l'uso di cocaina da parte di Mele. Certamente la vicenda politica di Mele è stata, da quell'episodio, totalmente compromessa, su questo non c'è dubbio. Mele, le voglio chiedere una cosa. Lei, nei confronti di Berlusconi, per questa vicenda delle escort della Dario, cosa prova? Solidarietà o no? Solidarietà. La Dario naturalmente è una donna disperata, come lo è stato la Zenobi nei miei confronti. Però voglio dire, Berlusconi io lo valuto come premier e su quello che fa per il paese e per i risultati che dà. Sinceramente entrare nel merito di queste vicende mi sembra veramente... No, mi sembra una cosa sulla quale sinceramente non mi va di dare dei giudizi, perché ognuno è libero di fare quello che vuole nella sua vita privata. È chiaro che si è allargato la questione dell'etica, perché fosse successo una cosa del genere 30-40 anni fa, probabilmente il Presidente del Consiglio sarebbe stato costretto a dimettere. Secondo lei non doveva usare, in generale, parlo... sono cambiati e tutto va in un'altra maniera. Non doveva usare più prudenza, questo lo dico da un punto di vista questo generale. Questo non ci sono dubbi, che chi copre dei ruoli istituzionali deve usare molta prudenza. Poi ognuno si regola come vuole. Senta, ho impressione che in alcune sue interviste che ha fatto, appunto quest'ultima Repubblica, una precedente al Corriere della Sera, ci sia un tentativo di attribuire quello che le è successo non ad una sua leggerezza, responsabilità, eccetera, ma appunto a un qualcuno che dall'esterno l'ha voluta incastrare. Non è un po' un ascoltatore, per esempio, mi ha scritto sentendola, no? Adesso diventa una vittima Mele. No, non voglio passare da vittima. Io dico le cose che sono successe. Sono abituato a dire la verità. Però parlare di un presunto complotto, di un tranello, di un trappolone, non significa scaricare la responsabilità su altri di quello che è accaduto. Chiedo scusa, no. Se lei mi attribuisce delle cose che io non ho detto, io ho detto in una intervista dove c'è l'intervistatore che ti fa una domanda e l'intervistato che dà una risposta. Allora, queste due cose si devono combinare. Il fatto del trappolone, voglio dire, alla fine è venuto fuori, ma io non ho dichiarato che è stato un trappolone. Io ho dichiarato, ma l'ho fatto ieri, che in questa storia sicuramente l'onorevole Greco c'entra, perché l'onorevole Greco mi ha proposto più volte questa signorina. Tutto qua. Va bene, allora lasciamo perdere alcune parole che lei evidentemente sono virgolettate ma non ha detto nell'intervista di Stella. Nella stessa intervista di Stella lei parla per esempio della facilità con cui in Parlamento entra e viene consumata droga e anche della facilità con cui, sempre secondo lei, ci sono molte persone con numeri di telefono di donnine, dunque di prostitute, insomma, intendiamoci, è così o no? Sì, allora io ho detto che in Parlamento ci sono tante persone per bene, l'ho ripetuto ieri anche a Paolo Berizzi. È chiaro che in tante persone per bene ce ne può essere qualcuna che fa uso di sostanze stupefacenti ed è figlio di una società, della nostra società. Cioè il Parlamento è lo specchio della nostra società. Cioè, poi non lo scopro certo io, per dire questa cosa. Ma dunque alcune interviste sono romanzate? Mi ricordo che ieri fecero una trasmissione, ci fu anche una vera polemica su quella trasmissione delle Iene, ma anche su quella vicenda del tampone, non so se lei se lo ricorda. Sì, come no, lo ricordo benissimo, sì. Non è una novità la mia. Comunque, in ogni caso, lei ha sempre negato di aver preso la cocaina quella sera, no? Certo, ma guardi che, come ho dichiarato in altre occasioni, dopo un mese di quella vicenda io sono andato a due università, quella di Bologna e di Milano, a farmi l'analisi psicologico, perché l'avvocato mi ha consigliato di fare questo. Poi ho chiesto alla procura di farmi le analisi e le analisi non sono state mai fatte. Cosa devo fare? No, ma per carità, lei si difende giusto che sia. No, ma per dimostrare che questa è veramente una parodia, voglio dire, che cosa devo fare? La parodia l'ha fatta Benigni, l'ha fatta Crozza, l'hanno fatta gli altri. Ma è tutta una parodia questa storia. Beh, certo, come dire, le premesse per la parodia c'erano tutte, però. Assolutamente sì, tanto è vero che, come l'ho detto prima, io su questa storia mi metto anche a ridere quando fanno le battute, perché mi metterei a ridere su altri, mi metto a ridere anche sulla mia vicenda. Mi metto in gioco, certamente. Però, voglio dire, di fronte a una situazione dove non si è voluti entrare nel merito, cioè si è ascoltato solo una parte e non si è ascoltata l'altra parte. Ah, ma su questo non c'è dubbio. Senta, sono due anni che chiedo di essere ascoltato. Certo, oggi c'è un processo, sarò ascoltato, ma probabilmente era più utile che mi ascoltassero qualche mese dopo la vicenda. Senta, ma lei vuole tornare in Parlamento? Ma guardi, in questo momento non ci penso. Sono impegnato su altre cose. Certamente la politica ancora la passione? Vedevo lontana. Ho pensato di mollare tutto, la politica è una grande passione. Dunque lei ha ancora l'ambizione di quello scranno a Montecitorio, ce l'ha ancora, le resta ancora addosso? Ma guarda, in questo momento non ci penso. Meno male, un po' di pausa non fa male poi, no? Infatti, infatti. La ringrazio molto, buona serata. Grazie a lei, buona serata a lei. 29 minuti, abbiamo i titoli della 7. Alessia Filippi, irresistibile nei 1500 stile libero, vince l'oro nella sua Roma. La Pellegrini fa il record del mondo nei 200, sono le donne a fare grande l'Italia del nuoto in questi campionati mondiali. Tra poco l'estrazione delle Superenalotto dal record, il 6 vale 107 milioni di euro, il montepremi più alto al mondo. Il CNR, almeno 3 milioni di italiani rischiano di diventare dipendenti dalla febbre del gioco. L'antitrust apre un'istruttoria sulla Sisal, la società penalizzerebbe i concorrenti di scommesse online. Sequestrato l'ospedale di Agrigento e a rischio crolli nel caso di un terremoto. Nei pilastri del San Giovanni di Dio, inaugurato 5 anni fa, più sabbia che cemento, dovrà essere sgomberato entro un mese. Nell'inchiesta non ancora conclusa, diversi indagati. Via libera della Camera al decreto anticrisi che ora passa all'esame del Senato. A Palazzo Madama annuncia Berlusconi ci saranno modifiche. E a proposito dell'Afghanistan, il Premier chiarisce non si cambia linea. Beh, insomma, la storia di Agrigento è sicuramente incredibile, giustamente molti telegiornali la mettono nei titoli. Prima della pubblicità abbiamo Luca da Milano, Massimo da Milano, Francesco da Roma, Giovanna da Milano, Pietro da Bologna. Dove eravamo? Eravamo con Luca da Milano, buonasera. Buonasera, Cruciani. Prego. Premetto di essere di Milano, milanese ed elettore di centrodestra. Però volevo dire... Premessa non necessaria, comunque. Insomma. No, ma la voglio dire perché sono a difendere la causa del Meridione. Io sono stato parecchie volte... Guardi che il centrodestra ha un sacco di elettori nel Meridione, le voglio ricordare. No, visto adesso il partito... Del Sud, sì, che però nasce soprattutto all'interno del centrodestra. Comunque, vabbè, esatto, insomma, lasciamo perdere. Allora... Ecco, secondo me è giusto che... facciano, che il governo faccia qualcosa per l'infrastruttura in Meridione. Io ho fatto un viaggio in auto da Lecce a Napoli e era quasi incredibile che nel 2009 le strade fossero ancora così malmesse, cioè ci ho impiegato 5 ore e mezza. Sono cose pazzesche, quando con l'alta velocità da Milano a Napoli ce ne impieghi 4 ore e mezza adesso. Niente, ma veramente per arrivare in Puglia da Milano c'è l'autostrada, uno potrà dire che l'autostrada è intasata, che d'estate c'è un casino, però insomma c'è un'autostrada. Sì, no, ma dal punto di vista delle auto come strade non c'è nessun problema, però i treni in Puglia non sono rimasti veramente a 50 anni fa, quindi io dico che le ferrovie intervengano anche in questo senso, perché si vuole valorizzare il turismo. Il Meridione ha tutto da offrire, però dal punto di vista delle infrastrutture non ci sono. Questo è vero, questo è vero, dal punto di vista delle infrastrutture non c'è il minimo dubbio. Massimo, sempre da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Io sono a Milano solo di passaggio perché sono residente in Svizzera, sono italiano e vivo da circa 20 anni in Svizzera e di infrastrutture non ne abbiamo, che funzionano. Sì, e lo so, mi aspetti un attimo allora, dato che... è di passaggio e sta andando verso la Svizzera, sicuramente tempo. Pubblicità, torniamo subito, qualche secondo. Esercizio del martedì. Allena il tuo intestino alla regolarità. Bevi Yakult anche oggi. Con miliardi di fermenti probiotici favorisce la regolarità intestinale. E se l'intestino sta bene, stai meglio anche tu. Yakult. Buongiorno, salute. La zanzara. Eccoci allora. Massimo, che ci voleva dire? Sì, il mio è un intervento, anche se è già un po' datato, un po' tempo che volevo intervenire nella trasmissione relativamente al modo di fare politica che c'è in Italia e vedo il raffronto con il mio paese, con la Svizzera. Cioè, rimango sempre a bocca aperta e sterefatto di fronte alla lottizzazione, alla politicizzazione di tutto ciò che viene fatto dal governo, che sia di destra, di sinistra. Il problema è che ci si azzuffa su tutto. Io volevo portare il mio contributo sul G8 che c'è stato all'Aquila, per me, tra l'altro, indipendentemente da come la penso, perché in Italia ormai sono anni che non voto, però è stata una bellissima azione quella di trasferire il G8 all'Aquila, che ha un po' sotto riflettori mondiali il terremoto che c'è stato. quello che ho notato è, da una parte, elogi fin troppo leziosi, forzati, dall'altra addirittura qualcuno che ha comprato giornali sulla stampa estera per, mi passa il termine, sputtanare il governo. Cioè, mi sembra tutto così fazioso, così brutto. Ma in generale la politica italiana è fatta di grandissima faziosità, Massimo. Soprattutto c'è troppa politica, c'è troppa presenza dei politici in tutti i gangli della società, dalla cultura, qualsiasi settore è invaso dalla politica. Ci vorrebbe una grande lotta di liberazione, altro che baggianate, vorrebbe... la lotta della liberazione dalla politica, dal gioco della politica che pervade ogni settore. In ogni settore c'è un consiglio di amministrazione dove c'è la politica, dove la politica mette becco, eccetera. È lo statalismo italiano che non è mai finito in realtà. Purtroppo così. Io ascolto, guardi, lo dico, so che a lei non piacciono i complimenti, comunque ascolto sempre la sua trasmissione in differita, scaricandolo dal computer quando posso. Io sono un trasportatore di una ditta, diciamo, italo-svizzera, e devo dire che ci sono veramente anche poche trasmissioni, e la sua è tra queste, che veramente fa informazioni senza cadere nella trappola dello schieramento. Veramente non se ne può più di vedere anche sui siti, io cerco di tenermi aggiornato sui fattori italiani perché ci tengo e sono soprattutto italiano prima che svizzero, però vedere dei siti tipo Il Giornale e tipo Repubblica che sono, cioè, mancano solo le armi, cioè sono schierati, non lo so, da una parte c'è il supereroe Berlusconi che sembra che spacchi il mondo, dall'altra è il più grande filibustiere, cioè, ma dove sta la verità? Cioè, si può sapere se in Italia qualcosa viene fatto di buono, sì o no? È questo che mi pongo. La ringrazio, Massimo. Eccoci qui alle 20:17, voglio mandare in onda un altro sgarbi di oggi, tanto per rinfrescarci le idee, perché c'è stato un dibattito molto forte tra gli ascoltatori su un linguaggio passabile o non passabile. Questo è forte, ve lo dico. Questo è forte, ve lo dico subito. Sentite. È vero che l'uccello del Premier non è un fatto privato, e però convenzionalmente gli si riconosce che dalle 2 del mattino alle 8 del mattino saranno cazzi suoi, cioè il tema è quello lì. Quindi andrebbe incriminata, come è stata quella di Salvo Sottile, la trombata con la Gregoracci fatta al Ministero di pomeriggio. Quella è che... Ma siccome il Premier di pomeriggio non tromba, allora c'è una specie di embargo, per cui se tu lo fai a Palazzo Grazioli dalle 2 di notte alle 8 ti perdoniamo. Credo che sia così, però io non lo so, perché io vado anche più avanti, io limito il mio orario ancora più ristretto. Il poeta Sgarbi, Pietro da Bologna, buonasera. Pietro, mi sente? È in macchina, in motorino, non so, o per strada, a passeggio. Pietro? Pronto? Pietro, ultima chiamata, Pronto? Ultimo appello, dica. Sì, dunque, io telefono per dire la mia su Sgarbi. Sì. Io noto che ci sono molte critiche negative al personaggio, e naturalmente è un personaggio con il quale non giocherei mai il doppio a tennis, che non inviterei alla comunione di mia figlia anche per l'imbarazzo di scegliere il tavolo giusto dove metterlo. E perché no? Beh, però potrebbe creare un po' di caos, bisogna essere anche diplomatici nella vita. Ma al di là di questo, io trovo che l'aspetto che possa essermi più o meno simpatico come amico sia assolutamente secondario rispetto alla provocatorietà, anche alla profondità e alla cultura che traspare dalle sue parole. Tra l'altro trovo che la sua volgarità non sia la volgarità che ci capita di ascoltare per le strade, marito e moglie, marito che dice alla moglie dove cazzo hai messo le chiavi della macchina. Ecco, non è questa volgarità, è una volgarità sicuramente eccessiva, sicuramente caricaturale, forse per colorare maggiormente il senso delle parole che dice, ma non si può definire Sgarbi una persona volgare. Quindi io penso che bisognerebbe fermarsi più alla sostanza delle cose, non alle forme. Io credo che un paese sia civile se riesce a eleggere, so che i tempi e la statura politica del leader è completamente diversa, però se riesce a eleggere un De Gaulle che era chiaramente antipatico e fiero di dimostrare la sua antipatia. Cioè bisogna sforzarsi di leggere il significato delle idee e non chi le pronuncia. Ci può essere una persona molto antipatica che pronuncia cose che io condivido e una persona a cui voglio molto bene che dice delle merite sciocchezze. Secondo me è una libertà, che poi è la libertà che Nietzsche dice, è guardare l'abisso con occhi d'aquila. Mm. Siamo senza salvagente, senza protezioni, però secondo me un uomo vero, un uomo libero deve cercare di fare questo. Mi rendo conto che altrimenti si cade nel rischio del tifo, cioè abbracciare idee per parere precostituito, forse perché la cosa ci fa vivere in modo più sereno. Mm. In realtà mettere in discussione le proprie idee dà più agitazione. No, ma questo sicuramente. Qualcuno mi rimprovera il fatto che io, quando per esempio parlo di Grillo o di Di Pietro, sostengo che la forma è anche sostanza, no? E dunque magari non mi soffermo troppo sul contenuto delle accuse che fanno, delle cose che sostengono Grillo e Di Pietro, cosa peraltro non vera, ma sono due piani completamente diversi. Sì, per esempio io ho il problema che ascolto sempre in podcast, quindi il giorno dopo la trasmissione. Sì. Ho ascoltato poco fa, tornando a casa, l'intervista ieri a Sgarbi. Non sono un moralista, non sono un bacchettone, mi è sembrata in effetti un po' troppo volgare, però ripeto, è sempre una volgarità colorita, cioè non è una persona che normalmente parla in modo volgare. Per esempio quando dice Coca-Cola di fa anche ridere, non so se mi spiego, non avverto la volgarità. Ecco, ci tenevo poi a dire un'altra cosa. Ieri ha detto un'inesattezza profonda, cioè dicendo che Muccioli è per il proibizionismo. Io volevo far presente che a Santa Trignano si produce un sangiovese di grandissima qualità. Sì, lo so bene. Ecco, e molti giovani seguono proprio questo settore. Quindi io non credo che ci sia, anche secondo me il vino è cultura, ma credo che lo fosse anche per Muccioli. Sì, ecco, no, assolutamente, Pietro. Naturalmente nelle cose che dice Sgarbi ci sono spesso delle inesattezze. È difficile anche ribattere ad ogni cosa, perché sennò il discorso no. Prende la tangente e si disperde in mille rivoli. Però certamente parlava in generale del proibizionismo, dunque ha messo Muccioli all'interno del proibizionismo su tutto, invece certamente sull'alcol o comunque sul vino, sulla produzione del vino non è così. Mi permetta, questo è dovuto più a problemi caratteriali di Sgarbi. Secondo me noi dobbiamo cercare di entrare nelle idee. Io vedo che questo atteggiamento di ostilità, mi è capitato parlandone con amici, c'è anche nei confronti di Ferrara, che sembra il classico Rodomonte che dice le sue cose, e vedo che spesso invece ci si ferma poco a cercare di capire qual è la provocatorietà, a volte anche la profondità del messaggio. E ripeto, purtroppo questo ci riduce a essere un paese di tifosi. Chi sposa una tesi la segue sempre comunque. Io rivendico la mia libertà di essere abbastanza incerto su tutto o anche di cambiare idea se qualcuno porta ragioni migliori. Ecco, tutto qui. E questo mi sembra un atteggiamento molto proficuo. La ringrazio, Pietro. Dove andiamo? Andiamo a Roma da Renato. Buonasera. Buonasera. Prego. Volevo dire una battuta sul poco onorevole signor Mele. Che non è più onorevole, tra l'altro. Infatti, va bene, meglio così. Ma anche lei mi sembra l'abbia detto alla fine, meglio una pausa. Anche lunga di pausa, insomma, per carità. Ma quanto vuole, insomma. No, io non sento la nostalgia, peraltro non l'avvertivo prima, figuriamoci adesso. No, ognuno è libero di difendersi come crede, ci mancherebbe altro. Però trovo ridicolo e anche un po' imbarazzante dire che si sia trattato di un trappolone, anche se poi lui nega la parola, ma in fondo poi... Sì, guardi, io non so, non mi sembra che gli articoli siano stati raggiunti da smentite. Un articolo di qualche tempo fa, prima delle elezioni, di Gian Antonio Stella, ripeto, c'è un virgolettato, e invece quello è il dubbio, un trappolone, per carità, parla di dubbio, però usa la parola trappolone. Oggi, in un'intervista a Repubblica, sostiene più o meno la stessa cosa, no, ma perché poi è inutile giocare con le parole, insomma le cose sono queste. Ma io a un amico posso invitarlo ad assaggiare un vino, stavamo parlando di vino, ma non certamente a trovare una prostituta, a meno che il mio amico non vada a prostitute e io vado a prostitute con lui. Tutto sommato mi fa veramente ridere, mi ha presentato più volte, mi ha incoraggiato più volte, io trovo che sia ridicola una difesa del genere. Poi per carità, no, ma lui dice, però scusi, Mele dice di essere stato messo in mezzo da questo Tato Greco, che è un ex parlamentare UDC che è indagato per associazione a delinquere della procura di Bari assieme a Giampaolo Tarantini, e oggi è segretario della lista Fitto e pare essere uno dei responsabili poi della candidatura della Daddario nella lista Fitto, di essere stato, come dire, messo in mezzo, nel senso che quella prostituta gliel'ha consigliata lui, gliel'ha presentata lui. Ma scusi, ma se io le consigliassi una prostituta, lei ci andrebbe, a meno che non ha già queste tendenze? No, ma non è che sia un... mi scusi però, Renato, non è che sia un delitto o un crimine andare con una prostituta, non è questo il punto. A parte il fatto che questo governo non lo definisce un delitto, ma sicuramente un reato. Vabbè, a me non c'entra niente col governo. Per carità, però voglio dire che mi sembra ridicolo pensare di essere stati trascinati. No, ma su questo non c'è dubbio. Infatti il pericolo in questo caso è di voler passare come vittima, e non credo che da questo punto di vista Mele possa avere successo, no? Nel voler passare come vittima. Non lui so. Nega addirittura però di voler passare come vittima, per cui... Certamente. Ma nello stesso tempo parla di una mezza trappola, ecco, se ancora si sta ascoltando, di una mezza trappola nei suoi confronti, sì. Per cui un po' di ambiguità c'è, resta, no? Va bene, teniamoci questo dubbio anche noi, ma insomma non credo che cambi granché. No, assolutamente, la ringrazio. Buonasera. Sulla cocaina però devo dire che ognuno si difende, lui sostiene di non averla mai presa, di aver fatto dei test addirittura, su quello per carità, dobbiamo essere molto molto garantisti. Luciano da Torino. Buonasera, mi sente con l'auricolare? La sento molto bene, dica. Senta, niente, una battuta. Io ho sempre ammirato tantissimo le persone colte, coraggiose, che si pagano il pedaggio, anche se Sgarbi non è molto importante, è importante di più Cossiga, di cui sono un grosso fan. Le persone colte eccessive possono creare ogni tanto qualche scompenso, però se la dicono, se la pagano, e direi... anche bene, non hanno bisogno che io li aiuti. No, io la telefonavo invece per un'altra cosa. Io sono l'orgoglioso padre di una figlia diciassettenne, faccio l'agente di commercio, e parlavo su questo nuovo proibizionismo che adesso sta prendendo piede, che mi fa ridere. Milano, Bologna, eccetera. Io non mi sento tutelato se non dall'educazione che io e mia moglie diamo a mia figlia. Mia figlia in questo momento pure di una famiglia benestante, o meglio, non benestante, ma comunque che non stiamo male, è in montagna a farsi un mesetto di lavoro in un rifugio alpino per pagarsi le sue ferie e poi il corso della macchina a settembre. Siamo noi che gli diamo i mezzi per cautelarsi in giro, mica la possiamo controllare tutta la vita, voglio dire, e neanche gli altri con il loro proibizionismo fasullo. Fortunatamente io ho un buon lavoro, ma se io fossi adesso un extracomunitario o un italiano disperato, mi comprerei una carretta e un po' di ghiaccio e andrei a vendere birra il sabato sera. Ha reso negli anni 30, secondo me renderà tantissimo anche adesso. Può darsi, ho letto qualche, sentito e visto qualche servizio in televisione in cui si adombra la possibilità che ci siano dei venditori abusivi di sostanze alcoliche o comunque di bevande alcoliche ai minori di anni 16. Credo che sia un'esagerazione, naturalmente. Però non è detto. Sì, però gli eccessi, vede, a quell'età gli eccessi bene o male li hanno fatti. Chi ti dà i mezzi? Insomma, mio padre faceva falegname, mia madre era un insegnante, io ne ho fatti di tutti i colori, però loro non mi hanno mai regalato niente, mi hanno dato dei valori che ho seguito ancora adesso che ho 50 anni e tutto sommato mi hanno sempre consentito di tirare avanti. Ma Luciano, guarda, da questo punto di vista con me sfonda una porta aperta, come lei sa, pur avendo ascoltato le voci più disparate. Io penso tutto il male possibile del provvedimento della Moratti. La questione di Bologna è un'altra cosa, perché non è un provvedimento, come dire, punitivo nei confronti di una categoria, gli under 16. C'è un ascoltatore che mi scrive un messaggio, la prego prima di chiudere ci faccia ascoltare Sgarbi, ho chiamato un po' di persone, siamo tutti sintonizzati su Radio 24, ha pensato come eventuale sigla, grazie. Non mi metta nei guai con la sigla, lasciamo perdere. Che devo fare? L'ho già fatto ascoltare 2-3 volte nel corso della trasmissione. Lei mi vuole far imbestialire quelli che pensano che Sgarbi vada cassato, soprattutto nei suoi aspetti più duri. Vabbè, vediamo. Abbiamo TG2, i titoli, sentiamo. Alla Camera voto sul decreto anticrisi, dibattito sull'Afghanistan, in transatlantico arriva Berlusconi, parla con Bossi e Tremonti e spegne sul nascere le polemiche nella maggioranza. Alessia Filippi conquista oro e record europeo nei 1500 stile libero. Volevo questa medaglia, dice, ho fatto una gara perfetta. I complimenti del Premier. Record mondiale per la Pellegrini nelle semifinali dei 200. Chiusa l'inchiesta segnata da mille polemiche su presunti abusi pedofili alla scuola materna di Rignano Flaminio. La procura non si arrende, chiesto il rinvio a giudizio per 5 indagati. Scatta un altro divieto, da domani niente più birra o vino in vendita nei carretti ambulanti, multe fino a 30.000 euro e confisca del mezzo. Nuovo appuntamento con il Super Enalotto, 107 milioni in palio con il jackpot mai centrato da 6 mesi, Montepremi in questo momento più alto al mondo, tra poco sapremo se c'è un vincitore. Cosa ne pensi di questa politica che ultimamente sembra più interessata al gossip che ai programmi? Penso che la gnocca tira comunque, quindi è un dato di fatto, però siamo ancora tranquilli perché siamo fermi alla gnocca, però siccome il culo ha un'area di estensione molto più ampia siamo in pericolo, perché se dalla gnocca passiamo al culo, il culo è sia degli uomini che delle donne, quindi è molto più diffuso, è pericoloso, quindi fin qui andiamo abbastanza bene, insomma. Quando arriveremo al culo sarà, quando scopriremo che Berlusconi è ricchione, sarà una tragedia. No, perché sai, quando uno vuole sperimentare tutto, giustamente sperimenta tutto, e può darsi, questo sarà forse il governo, non cade sulla gnocca, può darsi che cada, però non lo so. Ecco. Francesco da Roma, buonasera. Buonasera, io ho 43 anni, vivo a Roma, sono di origine siciliana, come si sentirà dal mio accento. Abbastanza, sì. Ho un ricordo da bambino, guardavo il telegiornale perché papà un po' ci obbligava, lo chiamava il comunicato, e mi ricordo di Mario Pastore. Sì, la figura, certo, TG2, conduceva il TG2. TG2 con gli occhiali spessi, no? E allora c'era la crisi del mezzogiorno, e allora c'era il problema, insomma, sempre le stesse notizie, no? Mi sembra che l'effetto è lo stesso. Infatti lei mi ha dato uno spunto, nei prossimi giorni cercheremo di ritrovare qualche voce di politici degli anni 70, 60 che ripetono il problema del mezzogiorno, bisogna risolvere il problema meridionale e tutte queste belle cose qui. Queste frasi, questo sorriso anche, cioè poi Mario Pastore terminava con un sorriso splendido. Io prendevo spunto da questo ricordo di fanciullo per dire una cosa un po' triste, forse scontata e banale. E ci ricordava il senatore a vita Giulio Andreotti che la politica è potere, il potere logora, ma è meglio tenerselo. Allora, finché la politica è potere, non ci convinciamo che al politico, alla classe politica, tranne qualche rarissimo caso, delle sorti del paese, della Milano-Lecce, della Salerno-Reggio Calabria, dell'Alitalia, frega assolutamente, non posso usare un termine sgarbiano, è vero? Beh, no, lo può usare, se lo può permettere. Sta minchia, io lo dico in dialetto, ma gliene frega niente. Se la politica è potere, e quando c'è stato, guardi, la dimostrazione è questa: il cambio lira-euro ha creato nuovi poveri. Io ricordo due decreti dell'allora presidente, adesso del Senato, credo, della Camera, io non in politica. Sono tanto contento. No, decreti del presidente della Camera mi sembra complicato, sono decreti dell'allora governo. Ricordo qualcosa che riguardava l'aumento dello stipendio dei signori senatori e deputati. Sì, però Francesco, la fermo un attimo, perché che la politica sia anche ricerca del potere, o sia soprattutto esercizio del potere, su questo non c'è dubbio, però come dire, è qualcosa che è consustanziale, direi, connaturato alla politica, è così, non c'è dubbio. Poi, sa, gli interessi del paese, non so nemmeno che cosa significhi gli interessi del paese, un'altra delle frasi abusate dalla politica. Ah, io per interessi del paese, io per ragioni lavorative vado nei paesi stranieri. Sì. Quando sento di un ministro delle telecomunicazioni svedesi che l'anno scorso, essendo trovato in difetto perché non pagava il canone televisivo, si è dimesso la mattina. Sì. Noto una certa differenza nei comportamenti dei nostri politici. Sì, no, però questa qua è storia vecchia, Francesco, per carità, è sempre attuale. Però bisognerebbe interrogarsi poi su quello che significa l'interesse del paese. No, l'interesse del paese è una somma di interessi particolari. Adesso la butto un po' sul filosofico. Le do una piccola risposta. Per me l'interesse del paese sarebbe cercare di separare quelli che sono i consumi e i servizi. Se io chiamo all'Italia e cerco di pagare, di comprare un carnet da 10 biglietti e voglio aiutare la compagnia di bandiera, mi si dice che un carnet di 10 biglietti sulla tratta Roma-Milano costa 250 euro. Io erroneamente dico 25 a tratta, bella, una bella promozione. No signore, 250 euro a tratta. Sì, però Francesco, mi scusi, in questo momento lei fa un'accusa a una società che è stata privatizzata. Sì, d'accordo, però come stai potenziando una società che è stata privatizzata, che prima era compagnia di bandiera, che prima era stato, che mi si dice io cittadino devo cercare di aiutare perché risolleviamo le sorti di qualcosa che debba essere comunque servizio, perché anche una società privata fa servizio. No, no, allora... Francesco, però non è che le decide Tremonti le tariffe dell'Alitalia, cioè, stiamo parlando di una società che è... impegnate in una difficile situazione, poi sono nelle ultime ore, negli ultimi giorni sono uscite anche delle notizie sull'azionariato e su una guida futura di Alitalia, ma non è su questo che vogliamo intrattenervi. Bisogna, quando si parla appunto di interessi del paese, però bisogna essere un po' più concreti. Non è che l'interesse del paese sia quello di spingere l'Italia a fare tariffe più vantaggiose, quelli saranno problemi dell'Italia e speriamo di una concorrenza che naturalmente su alcune tratte non c'è. Se si potessero migliorare quelli che vengono definiti servizi, sarebbe un buon inizio. Ah, su questo non c'è dubbio, soprattutto al sud, infrastrutture e servizi. Invece finisce come sempre finita con l'ospedale di Agrigento, dove però non sono indagati politici, da quello che sembra, 22 persone, tecnici, funzionari, manager dell'azienda ospedaliera, progettisti e imprenditori. Poi naturalmente manager dell'azienda ospedaliera saranno stati nominati dai politici. Vincenzo da Milano, buonasera. Sì, pronto, buonasera signor Luciani. Dunque io volevo solamente dire due cose, uno sui treni e l'altro su Agrigento, che in parte qualcuno ha già detto qualcosa. La cosa sui treni è che da tanti anni si parla che i treni vanno male, però che io sappia di manager non è stato nessuno né defenestrato ma nemmeno responsabilizzato, anche attualmente mi sembra che sia un signore di nome Moretta da qualche anno, però nonostante tutti i problemi delle cimici e dei ritardi, lui però sempre si giustifica e non viene mai, diciamo, come dire, non rende conto, almeno la struttura diciamo di controllo di questo signore non riesce a portarlo di fronte a delle responsabilità. Cioè, scusi, non ho capito, secondo lei Moretti si dovrebbe dimettere per quale motivo? No, Moretti si deve dimettere o Moretti o chi non riesce a ottenere dei servizi adeguati per diciamo per il pubblico. Cioè quello che diceva lo spettatore precedente, l'interesse pubblico, l'interesse del paese è proprio quello, cioè cercare di portare i servizi adeguati per un paese. Sì, Vincenzo, lei ha ragione. Naturalmente è così. Poi i risultati di Trenitalia possono essere valutati in modo diverso, non dal fatto che abbiamo presentato questa sera la vicenda di un treno, il Milano-Lecce, che è particolarmente disastrato. Ora, non è che la conseguenza del fatto che il Milano-Lecce è un treno disastrato siano le dimissioni dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Abbia pazienza. Dello Stato, scusi, la questione delle Ferrovie dello Stato è una questione che si dibatte da anni. Sì, ho capito, ma guardi che le Ferrovie dello Stato, Trenitalia, eccetera, eccetera, hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni. Cioè... Ma il problema è che avrà fatto passare gigante le Ferrovie dello Stato, però noi siamo utenti, alla fine il disservizio ce l'abbiamo sempre, cioè non siamo ai livelli. Ma dipende che treno prende, in che tratta, in che periodo, in che orario, cioè, non è sempre così. Io le ho parlato di un treno, non sto generalizzando, poi affronteremo altri casi. Ho parlato del caso di un treno che prendo spesso perché ho un'esperienza diretta. C'è stato anche un servizio del Corriere della Sera 10 giorni fa ed è il treno 781 Milano-Lecce. Poi non è che si può parlare adesso in generale tutti i treni sono un disastro, no, non è così. No, ma sto dicendo che a livello di servizio delle Ferrovie dello Stato nazionale non siamo ai livelli europei. Ma io non lo so, Vincenzo, da che punto di vista? Dipende che tipo di treni. La qualità, la pulizia. Tutta una serie, io il rimborso, prima parlavate del rimborso, sì. Io il rimborso non lo voglio, io voglio arrivare in orario, non voglio il rimborso. Ho capito, ma guardi che i ritardi ci sono anche in altri paesi, non è che in altri paesi arriva sempre puntuali, sì, spaccati. Ma lei provi ad andare in Germania, provi ad andare in Svizzera a vedere se i treni arrivano in ritardo o sono sporchi o non funzionano le cose o non c'è della sicurezza. Guardi, la sporcizia dei treni dei pendolari è un gravissimo problema. Recentemente c'è stata anche una chiara e lampante ammissione di colpa da parte dell'amministratore delegato di Trenitalia. Da questo punto di vista non c'è dubbio. Dopodiché, ripeto, bisogna anche essere circostanziare i fatti e non generalizzare, o no? No, ma non è voglia di generalizzare, la questione è proprio che sono sotto gli occhi di tutti i fatti che noi saliamo su dei treni. Io abito in zona anche, sì, frequento zona Lodi, sulla Milano Piacenza, i treni fanno, guardi, mi piace il termine, fanno veramente schifo in alcuni orari. Va bene, d'accordo, la ringrazio. Che voleva aggiungere, mi scusi? No, volevo aggiungere su Agrigento, adesso questo qui è l'ultimo scoop sul fatto che l'ospedale è stato dichiarato fuori legge, è stato scoperto che sia fuori legge. È spiegabilissimo, sono anni di connivenze tra politici e tecnici. Lei ha già fatto, ha già scritto la sentenza, cioè, aspettiamo, no, a leggere. C'è un cemento che ha alleggerito tutta la catena di controllo dei tecnici, direttori dei lavori, anche diciamo i responsabili delle aziende locali o dei comuni eccetera, sono stati conniventi. Sicuramente altrimenti... i controlli non sono stati eccezionali. La ringrazio, Vincenzo. Voglio ricordare che fu la Cassa per il Mezzogiorno nel lontano 83 ad approvare il progetto del nuovo ospedale di Agrigento. 1983. 80 miliardi di vecchie lire, questo è la prima previsione di spesa. Sonia, provincia di Genova, buonasera, abbiamo pochi istanti, prego. Io guardi, cercherò di essere breve, però parlando di treni, volevo dire che fare una differenziazione tra alta velocità e treni dei pendolari, bisognerebbe prima di tutto considerare quanti sono le persone, diciamo i pendolari, ma non solo, anche i turisti. Io abito in Liguria, quindi lo vedo tutti i giorni, che usano i treni locali, perché non sempre è possibile andare direttamente, che ne so, da Roma a Milano, ci sono anche tutte le fermate intermedie. Allora, se noi dedichiamo la maggior parte delle risorse all'alta velocità, non andiamo a servire quel 95% di persone che invece utilizza i treni, diciamo pure a media e breve velocità, che sono però quelli più frequentati. Sì, però Sonia, la questione dei treni a breve percorrenza, dei treni regionali o interregionali, è una questione molto complessa che riguarda il rapporto tra Trenitalia e le regioni, quanto le stesse regioni spendono. Il servizio è stato regionalizzato un po' di anni fa, non è che si può risolvere così dicendo non ci sono investimenti e quel comparto è abbandonato a se stesso. Certamente ci sono problemi che riguardano la pulizia, non c'è dubbio su questo. Però insomma, non si può dire quella è roba abbandonata, tutta l'attenzione è concentrata sull'alta velocità. Non è così. È proprio così, invece, lo posso assicurare, perché guardi, dati alla mano, lei può vedere la maggior parte delle risorse che spesso vengono drenate dal trasporto locale. Vabbè, è un problema, guardi, direzionate sull'alta velocità. Sonia, è un problema che affronteremo nei prossimi giorni, perché riprenderemo la questione dei treni. La ringrazio, abbiamo chiuso per questa sera. Con tutti gli altri ascoltatori, l'appuntamento è per domani, come al solito, 18:30 alla Zanzara. Ciao.